capire il mondo di quel che c'è, voglio assaggiare un po' di tutto. Sono bello, sono brutto, coccolato e farabutto, adescato dallo Stato, congedato e riciclato. E vai di qui, vai di là, mi divora la città, sempre a caccia di qualcosa, mi rifilano ogni cosa, quel che cerco veramente non lo so proprio per niente, ma se mi fermo qui sono fregato, fregato. Città. Qui conosco tanta gente e basta essere paziente. Un lavoro ed una casa sono tutta un'altra cosa, ma se mi fermo qui sono fregato. Che sono qui davanti un altro. Sono un alunno, voglio capire il mondo, voglio capire quel che c'è, voglio assaggiare un po' di tutto. Sono bello, sono brutto, coccolato e farabutto. Sono un alunno, voglio capire il mondo, di quel che c'è, voglio assaggiare un po' di tutto. Sono bello, sono brutto, coccolato e farabutto. Sono un alunno, voglio capire il mondo, di quel che c'è, voglio assaggiare un po' di tutto. Sono bello, sono brutto, coccolato e farabutto. Sono un alunno, voglio capire il mondo, di quel che c'è, voglio assaggiare un po' di tutto. Sono bello, sono brutto, coccolato.